ad alta voce. Massimo Popolizio legge Nos, il naso, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi. Terza puntata. Il mio naso, esclamò Kavalyov. Ed esso, appunto. Restate a prendere una tazza di tè con me, disse alla guardia. Mi sarebbe oltremodo gradito, ma non posso assolutamente. Devo passare dalla casa di correzione. Il caro vita aumenta per tutti i generi. Con me vive anche mia suocera, ovvero sia la madre di mia moglie, e poi i ragazzi, il maggiore in particolare, dà grandi speranze per l'avvenire. È un ragazzo molto sveglio, ma mezzi per la loro educazione non ce n'è. Kavalyov capì l'antifona e, presa dal tavolo una banconota, la ficcò in mano alla guardia, che con un inchino uscì. Quasi nello stesso istante Kavalyov sentì la sua voce già per strada, dove diceva quel che pensava a un bifolco che se ne arrivava con il suo carro sul viale. L'assessore di collegio, uscito che fu il vigile, restò in uno stato d'animo vago e solo dopo qualche minuto riacquistò la possibilità di vedere e di sentire. In tale smemoratezza l'aveva gettato l'improvvisa gioia. Prese con cautela il recuperato naso nelle due mani a ciotola e ancora una volta l'osservò attentamente. Ed esso, appunto, disse, ecco, anche sul lato sinistro il foruncolo spuntato ieri. Per poco il maggiore non scoppiò a ridere dalla gioia, ma di lunga durata non va nulla al mondo. E anche la gioia, nell'istante che segue al primo, già non è più tanto viva. Al terzo istante diventa ancor più debole e da ultimo insensibilmente si fonde col nostro stato d'animo abituale, così come sull'acqua il cerchio generato dalla caduta di un sasso si fonde da ultimo con la liscia superficie. Kavalyov prese a riflettere e si rese conto che la faccenda non era ancora finita. Il naso era stato, sì, ritrovato, ma occorreva ancora applicarlo, rimetterlo al suo posto. E se non regge? A una tale domanda, mossa a sé medesimo, il maggiore impallidì. Con un senso di indicibile terrore si precipitò alla tavola, orientò lo specchio onde non correre il rischio di applicare il naso in qualche maniera di traverso. Le sue mani tremavano. Con estrema cautela lo mise al suo luogo naturale. Orrore! Il naso non faceva presa. L'accostò alla bocca, lo riscaldò leggermente col fiato e di nuovo lo ripose sullo spazio liscio tra le due guance. Ma il naso non si reggeva in nessuna maniera. Qui andiamo dunque. Sta a posto, stupido! Gli diceva. Ma il naso faceva orecchi da mercante e ricadeva sul tavolo con un certo strano suono, come di turacciolo. Il viso del maggiore si contraeva spasmodicamente. Non s'attaccherà dunque mai? Si chiedeva egli con spavento, ma per quante volte lo riponesse al suo luogo naturale, altrettante il tentativo risultò infruttuoso. Chiamò allora Ivan e lo mandò in cerca di un dottore che nel medesimo stabile occupava il miglior appartamento al piano nobile. Questo dottore era un uomo aitante, portava magnifici favoriti d'un nero di pece, aveva una fresca e florida moglie, mangiava tutte le mattine mele crude e teneva la bocca straordinariamente pulita, sciacquandosela ogni giorno per tre quarti d'ora e strofinandosi la dentatura con spazzolini di cinque specie differenti. Il dottore comparve subito e chiese da quanto tempo era capitato l'infortunio. Sollevò la testa del maggiore e gli diede col pollice un buffetto nel luogo dove prima stava il naso, sicché il maggiore dove buttare il capo indietro così vivamente da picchiar di nuca nel muro. Il medico assicurò che questo non era nulla e, consigliatogli di scostarsi alquanto dalla parete, gli ordinò di piegare dapprima il capo verso destra. Poscia, palpato il posto dove a suo tempo stava il naso, fece... Quindi ordinò di piegare il capo verso sinistra e fece... e a mo' di conclusione gli applicò col dito grosso un buffetto, laonde il maggiore Cavaglioff scartò con la testa come un cavallo a cui si guardino i denti. Condotto a termine un tale esame, il dottore scosse la testa e pronunciò: «No, non si può. Il meglio per voi è restare come siete, per evitare complicazioni. Senza dubbio si può rimettere a posto. Io, diamine, ve lo riattaccherei seduta stante, ma vi accerto che sarebbe peggio per voi». «Ma questa sì che è bella! E come posso restare senza naso?» disse Cavaglioff. «Tanto peggio di così non potrebbe essere. Ma che diavolo rappresento conciato in questo modo? E dove potrò mostrarmi con una tale risibile deformità? Io ho ottime conoscenze, per l'appunto. Oggi stesso ho due serate in due case diverse. Io ho molte conoscenze. La consiglieressa di Stato Cektariova, l'ufficialessa superiore Padocina. Quantunque, dopo una simile azione da parte sua, non abbia alcunché da spartire con lei, se non per intermesso della polizia. Fatemi la grazia», seguitò Cavaglioff con voce supplichevole. «Non c'è mezzo. Riattaccatelo in una maniera qualunque, anche non perfettamente, purché si regga. Io stesso potrò sistemarlo un tantino con la mano in caso di pericolo. Senza contare che io non ballo, da compromettere ogni cosa con un movimento inconsulto. E per tutto quanto si riferisce al riconoscimento dei vostri servigi, potete star tranquillo che, nella misura che me lo permettono i miei mezzi...» «Dovete sapere», disse il dottore, con voce né forte né sommessa, ma oltremodo esortativa e magnetica, «che io non curo mai per interesse. Ciò è contrario alle mie regole e alla mia arte. Prendo, è vero, qualcosa per le mie visite, ma unicamente per non offendere con un rifiuto. Senza dubbio vi riattaccherei il naso, ma vi assicuro sull'onore, giacché non credete alla mia semplice parola, che per voi sarebbe di gran lunga peggio. Lasciate piuttosto fare alla natura. Lavatevi più spesso con acqua fredda e io vi assicuro che senza naso starete bene come se ce l'aveste. E per quanto riguarda il naso, vi consiglio di metterlo in un boccale di spirito, o meglio ancora di aggiungere due cucchiai da tavolo di spirito di sale o aceto tiepido, e allora potreste cavarne dei bei quattrini. Io stesso prenderei il vostro naso se però non ne chiedeste troppo». «Ma no, non lo venderò per nessuna somma», esclamò desolato il maggiore Cavaglioff. «Piuttosto lascerò che vada in malora». «Come volete», disse il dottore inchinandosi. «Volevo riuscirvi utile. Pazienza, almeno avete visto che ho fatto quanto era in me». Ciò detto, il dottore con gran misura uscì dalla camera. Cavaglioff non fece neppure attenzione a lui e notò appena, nel suo profondo smarrimento, i polsini della sua camicia, candidi come neve, che sortivano dalle maniche del nero frac. Il giorno dopo, prima di rivolgersi alla giustizia, il maggiore si decise di scrivere all'ufficialessa, chissà non acconsentisse a rendergli con le buone ciò che gli spettava. La lettera era del seguente tenore: «Egregia signora Alessandra Grigorievna, non posso capire il vostro strano comportamento. Siate persuasa che agendo in tal guisa non guadagnerete nulla, né in alcuna maniera mi forzerete a sposare vostra figlia. Sappiate che la storia relativa al mio naso è ormai di ragione pubblica, come anche il fatto che voi e nessun altri ne siete il principale artefice. La sua inopinata sparizione dal suo proprio luogo, la fuga e la mascherata, ora sotto le spoglie di un funzionario, ora infine sotto le sue medesime, altro non sono che la conseguenza dei sortilegi da voi operati, o quantomeno da coloro che attendono per vostro conto a tali degne occupazioni. Io da mia parte stimo doveroso prevenirvi che, ove detto naso non fosse oggi stesso reintegrato al suo proprio luogo, mi vedrei costretto a ricorrere alla difesa e protezione delle leggi. Frattanto, coi sensi della più perfetta stima, ho l'onore di dirmi il vostro umile servo, Platon Cavaglioff». Egregio signore Platon Kavalyov, la vostra lettera mi ha oltremodo meravigliata. Sinceramente vi confesserò che non mi attendevo ciò da parte vostra, né tantomeno i vostri ingiusti rimproveri. Debbo rendervi noto che non ho mai ricevuto in casa mia il funzionario cui accennate, né mascherato, né tampoco nel suo vero aspetto. È stato da me, è vero, Filippo Ivanovich Potanchikov, ma sebbene egli, non lo nego, pretendesse alla mano di mia figlia, e seppure illibato di condotta irreprensibile e di chiaro sapere, io tuttavia non ebbi mai a dargli alcuna speranza. Voi parlate anche di un certo naso. Ora, se con ciò intendete che io abbia voluto lasciarvi con un palmo di naso, ossia rispondere alle vostre assiduità con un formale diniego, in tal caso sarei assai sorpresa che proprio voi poteste ciò credere, quando sapete benissimo che io sono anzi di parere del tutto contrario e disposta in questo medesimo istante, ove chiediate mia figlia in sposa, secondo le regole, a darvi piena soddisfazione, già che tale fu ognora l'oggetto dei miei più ardenti desideri, nella quale speranza è sempre pronta al vostro servizio, mi dico Alessandra Adocina. Disse Kavalyov dopo aver letto questa lettera. Essa non è certo colpevole, è impossibile. La lettera non è scritta come avrebbe potuto scriverla un colpevole di delitto. E l'assessore di collegio era in questa partita un intenditore, perché già al Caucaso era stato designato per più di un'inchiesta. In che modo allora? E per qual caso è avvenuto ciò? È solo il diavolo mi caverebbe le gambe, disse egli alla fine, lasciando cadere le braccia. Frattanto la fama di questo straordinario avvenimento correva la capitale e, come avviene, non senza opportune aggiunte. A quel tempo gli spiriti di tutti erano particolarmente volti al soprannaturale. Non era molto che esperimenti di magnetismo avevano attratta l'attenzione del pubblico. Inoltre, la storia delle seggiole danzanti alla Kanyushchenaya era ancora di fresca data, perciò non v'è da meravigliarsi se presto cominciò a correr voce che il naso dell'assessore di collegio Kavalyov alle 3 in punto passeggiava sulla prospettiva. I curiosi vi si riunivano ogni giorno in folla. Affermava uno che il naso si trovava nel negozio di Junker e subito davanti a Junker si formava una tale moltitudine e ne nasceva un tal parapiglia che doveva persino intervenire la forza pubblica. Uno speculatore d'aspetto degno, con favoriti, il quale prima vendeva pasticcini raffermi all'uscita dei teatri, costruì per l'occorrenza degli ottimi e solidi sgabelli di legno, su cui invitava i curiosi a prender posto, verso compenso di 80 copecchi ciascuno. Un colonnello a riposo uscì di casa prima del tempo a bella posta e a gran fatica s'aprì un passaggio tra la folla, ma con suo grave disappunto scorse nella vetrina del negozio, in luogo del naso, un comune panciotto di pelo e una litografia rappresentante una fanciulla che si tirava su una calza, mentre da dietro un albero, un moscardino in gilet rovesciato e pizzo, la spiava. Composizione che stava lì attaccata, sempre al medesimo posto, da più di 10 anni. Allontanandosi, il colonnello proferì con dispetto: «Ma com'è lecito turbare la popolazione con simili voci sciocche e inverosimili?» In seguito corse voce che non sulla prospettiva, sebbene al giardino di Tauride passeggiava il naso del maggiore Kavalyov, che Hosref Mirza, quando ci abitava, s'era molto meravigliato di questo scherzo della natura. Alcuni studenti dell'Accademia di Chirurgia vi andarono. Una nota e rispettabile dama chiese, con lettera scritta di proprio pugno al guardiano del giardino, di voler mostrare ai suoi figli il raro fenomeno e, se possibile, di aggiungere spiegazioni profittevoli ed edificanti per la gioventù. Di tutti questi avvenimenti restarono oltremodo soddisfatti gli immancabili frequentatori di serate mondane che amano rallegrare le dame con aneddoti di cui allora appunto erano restati a corto. Un piccolo numero di persone rispettabili e bene intenzionate ne rimase per contro oltremodo scontento. Un signore disse con malumore che lui non capiva come nel nostro secolo di lumi potessero diffondersi simili assurde fantasie e che si meravigliava altamente come il governo non vi ponesse rimedio. Questo signore era, come si vede, del numero di quelli che vorrebbero vedere il governo immischiato in tutto, perfino nelle loro quotidiane baruffe, con la propria metà. In conseguenza di che... Ma qui di nuovo tutta la faccenda si perde nella nebbia e quanto avvenne poi, precisamente, nessuno lo sa. Fatti assurdi avvengono in questo modo, da cui talvolta ogni verosimiglianza è bandita. A un tratto, quello stesso naso che scarrozzava col grado di consigliere di Stato e aveva sollevato tanto rumore nella città, ricomparve come se niente fosse al suo proprio posto, ossia appunto tra le due guance del maggiore Kavalyov. Ciò avvenne il 7 di aprile. Svegliatosi e gettata per caso un'occhiata allo specchio, questi vede il suo naso. Lo tocca con la mano, il suo naso, non c'è che dire, disse Kavalyov, e dalla gioia a momenti si abbandonava attraverso la stanza e così a piedi nudi a una danza sfrenata, ma l'ingresso di Ivan glielo impedì. Il maggiore chiese subito di lavarsi e lavandosi guardò ancora una volta allo specchio. Il naso, asciugandosi con la tovaglia, guardò da capo. Naso! Di un po', Ivan, mi pare d'aver sul naso una specie di fignolo, fece egli e pensava frattanto. Ora sarebbe bella che Ivan dicesse, non che fignolo, io non vedo neppure il naso. Invece Ivan disse, niente, nessun fignolo, il naso sta benissimo. Ottimamente, che il diavolo mi porti, disse fra sé il maggiore e schioccò le dita. In quella fece capolino alla porta il barbiere Ivan Yakovlevich, ma tanto timidamente quanto un gatto che avessero poco prima frustato per un furto di lardo. Dillo da prima. Hai le mani pulite? Gli gridò da lontano Kavalyov. Pulite? Non è vero. Pulite, fede mia, signore. Beh, vada a te. Kavalyov si sedette, Ivan Yakovlevich gli mise l'asciugamano e in un battibaleno, con l'aiuto del pennello, gli mutò il mento e una parte delle guance in una crema simile a quella che si serve ai genetliaci dei mercanti. «Eccoti», disse fra sé Ivan Yakovlevich, guardando il naso, quindi chinò la testa dall'altra parte e lo guardò di sguincio. «Chi sei, birbante?» proseguì e contemplò a lungo il naso. Infine, con grande leggerezza, con la più gran cautela che si possa immaginare, levò due dita onde prenderlo per la punta, giacché tale era il sistema di Ivan Yakovlevich. «Oi, oi, oi! Attento!» gridò Kavalyov. Ivan Yakovlevich lasciò cadere anche le braccia, si impaurì e turbò come non si era mai turbato in vita sua. Finalmente... prese a grattare cauto col rasoio sotto il mento e quantunque gli riuscisse assai malagevole radere senza tenere per l'organo olfattivo del corpo, non di meno, appoggiando il suo pollice calloso contro la guancia e la gengiva inferiore, gli riuscì infine di superare alla bella e meglio tutte le difficoltà e di arrivare in porto. Quando tutto fu fatto, Kavalyov s'affrettò a vestirsi, prese una vettura e si recò difilato al caffè. Entrando, gridò da lontano, «Ragazzo, una tazza di cioccolata!» E giù in quel medesimo istante un'occhiata allo specchio. Il naso c'era. Allegramente egli si volse indietro e lanciò uno sguardo ironico, socchiudendo un po' gli occhi a due militari, uno dei quali il naso non ce l'aveva più grosso di un bottone da gilet. Dopodiché si recò alla cancelleria del dipartimento in cui stava brigando per un posto di vice governatore o, in caso di insuccesso, di ispettore. Attraversando l'anticamera si guardò allo specchio. Il naso c'era! Poi si recò a far visita a un altro assessore di collegio o maggiore, uomo assai caustico, cui egli spesso diceva in risposta a rilievi pungenti: ti conosco bene, linguaccia! Per la strada pensava: se neppure costui scoppia a ridere vedendomi, è certo segno che ho tutto a posto. Ma il collega, zitto. Benone, benone, il diavolo mi porti, pensò Cavaglioff. Per la strada scontrò l'ufficialessa Padocina con sua figlia. Le ossequiò e ne fu risalutato da allegre esclamazioni, vale a dire, tutto andava bene. In lui non era visibile deformità alcuna. Restò a chiacchierare molto a lungo con loro e, a bella posta, estratta la tabacchiera, si rimpinzò a sazietà in loro presenza il naso da tutte e due le narici, dicendo fra sé e sé: ecco qua per voi, femminucce mie, e con la figliola in tutte le maniere non mi sposerò. Dovesse essere così por amor, bene, e allora sarebbe un altro affare. E il maggiore Cavaglioff da allora andò a spasso come se nulla fosse stato, vuoi sulla prospettiva, vuoi per i teatri, insomma, dappertutto. E il naso del pari, come se nulla fosse stato, se ne rimaneva in mezzo al suo viso e non mostrava neanche lontanamente d'aver prevaricato. E dopo ciò videro il maggiore Cavaglioff sempre di buon umore, sorridente, inseguente tutte senza eccezione le graziose signore e persino lo videro una volta che si fermava davanti a una bottega del mercato centrale e comprava un nastro da decorazione, chissà poi perché, visto che non era cavaliere di nessun ordine. Ecco che storia è capitata nella capitale nordica del nostro vasto impero. Soltanto adesso, tutto ben considerato, ci avvediamo che c'è in essa molto di inverosimile. Anche senza parlare che è davvero strana la soprannaturale scomparsa del naso e la sua ricomparsa in diversi posti sotto le spoglie del consigliere di Stato, come poi Cavaglioff non s'accorse che non si può inserire un annuncio sui giornali quando si tratta di un naso? Io qui non intendo già dire che un annuncio costa troppo caro. Questa è cosa trascurabile. Né io sono in alcun modo del numero della gente attaccata al denaro, ma dico che non sta bene. Che è una goffaggine, una cosa malfatta. E ancora, come diamine il naso si trovava nel pane sfornato? E come lo stesso Ivan Yakovlevich? No, non ci capisco un H, proprio non ci capisco. Ma quel che è in vero più strano e più incomprensibile di tutto il resto è come gli autori possano scegliersi con simili soggetti. Confesso che ciò mi riesce del tutto incomprensibile. E ciò davvero... No. Assolutamente non capisco. In primo luogo, ciò non può essere d'alcun vantaggio al paese. In secondo luogo, ma tanto anche in secondo luogo, non vi può essere utilità alcuna. Veramente non so che cosa ciò può rappresentare. Ma pur tuttavia, e nonostante quanto detto, come evidentemente si può ammettere una cosa e l'altra e una terza, si può anche... infine... Dove che non si danno assurdità. E però giratela come vi pare, in tutta questa storia mi pare in coscienza che ci sia qualcosa di vero. Che se ne dica, simili fatti capitano nel mondo. Di rado, ma capitano. Massimo Popolizio ha letto «Nos», «Il naso» di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti.